sospira scosa, e rosa rugiadosa, e rosa rugiadosa, e rosa rugiadosa. Ma sospira, sospira scosa, e rosa rugiadosa, e rosa sulla guancia la mancia rosa, trascura e rispallora, trascura e rispallora, mangere la rosa. Addio ninfe dei fiori e ninfe degli orori, primavera gentile, statti, statti pur con aprile, statti, statti, statti, pur statti, con statti, statti, pur con aprile, pur con aprile, che più vaga e più che più vaga la si primavera, si primavera, primavera, mira si primavera, su quella fresca rosa, si primavera, mira si quella fresca rosa, this one.